Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. Professor Chiesa, lei hai esatto. fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Mi fa pensare un po' agli anni 70, io non so per quale. Stop solo quando guidavano delle belle ragazze. Bravo. Eccolo là. Elegantissima, come al solito sei tu. Buongiorno alle mie conduttrici che mi accompagnano durante le mie lunghe ore in macchina. Torpedo blu. Stamattina molta nostalgia perché era la canzoncina della macchina del capo, il boxer, che anche io ho avuto in gioventù. Al capone e in camicetta e maxi gonna, tu mi accenderai il sigarrone. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Occhi che sanno parlare, che ti prendono. Eccoci qua. Oggi, come anticipato, a Cuore Denari giochiamo d'anticipo e celebriamo la giornata mondiale della vista, che come ogni anno cade il secondo giovedì del mese di ottobre. Quest'anno la giornata è dedicata alla guida sicura e ai giovani che saranno i guidatori di domani. Sappiamo che molti di voi ci ascoltano mentre sono alla guida e quindi, Deborah, li invitiamo subito. Altro che a chiamarci. All'800 24 0024 raccontateci come vi sentite alla guida, se avete delle difficoltà di notte, quando entrate in galleria, quando vi sparano gli abbaglianti, quando piove al crepuscolo. Accostate, fermatevi un attimo, chiamate il nostro numero verde per intervenire in diretta. Pronto a rispondere alle vostre domande, abbiamo il grande piacere di avere in linea con noi il professor Francesco Bandello. Professore, buongiorno e bentornato finalmente. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benvenuto. Il professor Bandello è direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Professor Bandello, va a dirci bene, soprattutto per chi ha il volante fondamentale, perché la buona vista può salvare la vita. Non c'è ombra di dubbio. I nostri tempi di reazione sono fortemente condizionati dalla vista, l'arco riflesso che ci porta a sollevare il piede dall'acceleratore e schiacciare il freno parte dal rilievo visivo di un pericolo, e quindi è essenziale che la vista sia perfettamente funzionante quando ci si mette alla guida, perché gli imprevisti non sono ovviamente prevedibili, per definizione sono delle cose che non possiamo immaginare che si verificheranno e dobbiamo avere la capacità di rilevarle immediatamente. E anche perché le informazioni necessarie alla guida sono fornite per l'80% dagli occhi, professore. Sì. Diciamo che la vista la fa da padrona, non c'è dubbio che è l'organo più importante quando ci mettiamo al volante. Parleremo naturalmente anche di giovani, dopo le 11.30 verrà a trovarci anche il professor Paolo Nucci, quindi se avete bambini, adolescenti che magari hanno problemi di vista, avete dei dubbi, chiamateci all'800 24 00 24, ma intanto iniziate a chiamare, soprattutto se siete al volante, segnalateci eventuali disagi, qualche problema, stanchezza, lacrimazione, difficoltà nel mettere a fuoco, e soprattutto diteci se avete un disturbo della vista già corretto con occhiali o con lenti a contatto, oppure se vi siete sottoposti alla chirurgia refrattiva. Non a caso proprio la vista è al centro dei controlli medici quando si tratta di ottenere o riottenere, quindi rinnovare, il documento che ci permette di metterci alla guida, la famigerata patente, quel documento che peraltro proprio i neo maggiorenni desiderano di più e che ai più grandicelli, quando periodicamente scade, dà un piccolo segnale del tempo che passa. Allora, subito la domanda ai nostri ascoltatori: voi intanto quante volte l'avete rinnovata? Come è cambiato il vostro modo di guidare dall'ultimo rinnovo? C'entra c'entra anche la vostra vista in questo cambiamento? A partire dalle 11.45, per quello che riguarda la pagina di denari, ricordiamo le scadenze e le modalità da seguire per rinnovare la patente, ma parleremo anche di come il codice della strada si prende cura, tra virgolette, dei più giovani che, lo ricordiamo, ai ragazzi e anche ai genitori all'ascolto, hanno anche per il loro bene delle regole più stringenti da rispettare. 800 24 00 24 è il numero verde per tutte le vostre domande. Come anticipato, la giornata mondiale della vista di domani sarà dedicata ai giovani e alla guida sicura e vuole essere l'occasione per sottolineare ancora una volta l'importanza della prevenzione attraverso controlli periodici anche in assenza di sintomi. In linea con noi è tornato a trovarci l'avvocato Giuseppe Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, che con l'OMS promuove la giornata. Avvocato Castronovo, buongiorno e grazie. Buongiorno, io ringrazio lei e tutta la meravigliosa Radio 24, Sole 24 Ore, che si interessa non solo dei ciechi, ma della prevenzione della cecità, due interventi sociali di altissima civiltà. E premesso questo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno promuove la Giornata Mondiale della Vista. Perché? Perché purtroppo in Italia e nel mondo, ma nel mondo in particolare, su 1 miliardo di disabili ci siamo 285 milioni di minorati della vista, cioè più di un quarto di tutta la popolazione disabile del mondo. E purtroppo la minorazione della vista è in aumento, sia nei paesi, diciamo, dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina, sia in Occidente, magari per motivi diversi. Da noi per opulenza, perché la retinopatia da diabete viene da opulenza, la degenerazione maculare senile non sappiamo da che cosa viene, ma è più diffusa in Occidente, e in Oriente la mancanza di medici, la mancanza di farmaci. E allora la giornata è in Italia, stiamo sensibilizzando sempre l'opinione pubblica e le istituzioni. Abbiamo, che circolano in tutto il territorio nazionale, 18 unità mobili che fanno visite ovunque gratuitamente. Ci saranno in 70 città d'Italia, va bene, non solo visite, ma ci saranno conferenze, ci saranno distribuzioni in 335 scuole di opuscoli, brochure dove si parla della prevenzione della cecità, sia quest'anno per i giovani, sia per una guida sicura. Perché per i giovani? Perché i giovani, che magari hanno delle minorazioni visive, le trascurano e se guidano con le moto, le macchine, eccetera, magari incuranti di questa loro, magari modesta, minorazione visiva, ma che può creare danni gravissimi a loro e agli altri. Quindi siamo per le visite preventive, io dico dalla nascita dalla culla alla bara, come dicono gli svedesi. Io dico che le visite oculistiche si fanno sempre, la guida sicura certamente. Quante persone, quanti giovani, ma soprattutto quanti anziani guidano le macchine non sapendo il residuo visivo che posseggono, e magari in presenza di condizioni atmosferiche variabili e variate nel corso del loro viaggio, che in base al residuo visivo che hanno non prevedono e non vedono gli ostacoli, va bene, che improvvisamente si presentano a loro. Grazie avvocato, buona giornata. Grazie. Viaggiare. E noi continuiamo a viaggiare, viaggiate insieme a noi chiamando l'800 24 00 24. In linea il professor Bandello. Professore, abbiamo capito che se vediamo bene guidiamo bene, siamo anche più sicuri. Il problema però è che un automobilista su 10 non sa di avere problemi di vista. Un dato su cui è bene aprire gli occhi, perché fino a quando noi vediamo non abbiamo nessun disturbo, andiamo avanti, perché andare dall'oculista? Professore, invece voi insistete che i controlli vanno fatti. Sì, diciamo l'esempio più evidente di quello che lei stava dicendo è rappresentato dalla condizione dell'occhio pigro, o ambliopia, come diciamo noi medici. che significa una condizione in cui non ci sono delle vere malattie, se uno fa fette l'occhio ambliope, l'occhio pigro lo trova normale, però è un occhio che garantisce una visione meno buona rispetto all'altro. Questo può accadere per esempio perché è un occhio con un difetto di vista maggiore rispetto all'altro e nell'arco del periodo della vita infantile in cui lo sviluppo della visione si verifica, quell'occhio non ha saputo mandare al cervello delle immagini di qualità adeguata perché il cervello imparasse a utilizzarlo. Ebbene, moltissime volte accade che il rilievo dell'occhio pigro, il rilievo dell'occhio che vede meno dell'altro, avviene casualmente nel corso di una visita oculistica. Il paziente è talmente abituato ad avere quel tipo di visione che non ha coscienza della condizione di handicap. E questo è l'esempio forse maggiore del fatto che il paziente non è in grado talora di apprezzare quale sia il livello effettivo della propria funzione visiva e la visita oculistica è la valutazione da parte dello specialista quella che ti consente di individuare eventuali handicap di questo tipo. Allora vi chiediamo qual è l'ultima volta che vi siete sottoposti ad una visita oculistica e per quale ragione? 800 24 00 24, abbiamo già gli ascoltatori. Ah, sì, pensavo, ma tu stai sorridendo. No, pensavo che mi stessi chiedendo l'ultima volta che l'ho fatto io avendo gli occhiali nuovi, come vedi l'ho fatta a marzo. E quindi... Professor Bandello, devo dire che Deborah è un po' il mio gioiellino, segue tutto. Lei invece, Nicoletta? Io l'ho fatto un anno fa perché... sono andata di corsa perché mi è venuta all'improvviso un bruciore agli occhi pazzesco, era in estate e ho avuto naturalmente un po' paura, invece però devo dire che a parte un po' di presbiopia, che è un regalo degli anni e che non è neanche un difetto refrattivo, vero professore? Ma non è possibile perché la presbiopia viene dopo i 40 anni. Bene, professore. E con questa il professor Allora Bandello. Io ho una presbiopia un po' anticipata, professore. Ecco, allora è quello. No, punto. No, la presbiopia è la graduale incapacità che noi abbiamo di mettere a fuoco gli oggetti a distanza ravvicinata. Quando noi mettiamo a fuoco degli oggetti a distanza ravvicinata, riusciamo a farlo perché c'è un muscolo all'interno dell'occhio che si contrae, modifica la curvatura del cristallino e in pratica è come se attivasse un occhiale all'interno dell'occhio che ci consente di mettere a fuoco gli oggetti alla distanza a cui vogliamo vedere in quel momento. Purtroppo la funzione di questo muscolo e la plasticità del cristallino, l'elasticità del cristallino si vanno riducendo col passare degli anni, è una cosa che inizia praticamente dopo la nascita, molto gradualmente, ma a 40 anni raggiunge quel livello di inefficienza che è tale da determinare la incapacità di mettere a fuoco gli oggetti che sono posti a 30 cm di distanza. 30 cm di distanza è circa la distanza a cui noi leggiamo abitualmente. Infatti è quello che io dico, è un po' il disturbo delle braccia che si accorciano. Bravissima. O che si devono allungare. Bravo, no? Perché ci si rende conto che uno comincia ad allontanare un po' il testo, non riesce più a vedere la distanza a cui vedeva prima, quello è segno evidente del fatto che la presbiopia sta arrivando. Avanzando. La correzione è molto banale, come sapete, si utilizzano delle lenti di segno positivo che integrano la funzione di quel muscolo, di quella funzione accomodativa che si sta perdendo con gli anni e ti consentono di vedere nitidamente alla distanza a cui vuoi vedere. Questa correzione va poi cambiata nel tempo perché parallelamente al depauperamento dell'accomodazione bisogna incrementare il numero di diottrie che si utilizzano per vedere a distanza ravvicinata. Professor Bandè, allora che orecchie da mercato, come si dice, che orecchie per intendere intenda. Vi aggiornerò sulla correzione della mia presbiopia. Intanto, professore, miopi, ipermetropi, astigmatici, chi rischia di più se non adeguatamente corretto? In quale condizione? Torniamo alla guida delle nostre autovetture. Diciamo che in linea di massima la entità del difetto di vista è quella che condiziona la entità della difficoltà a guidare, per cui se il difetto di vista è di 3 diottrie, di 4 diottrie, di 5 diottrie che siano di segno positivo, quindi di tipo ipermetropico, che siano di segno negativo, quindi di tipo miopico, che siano invece diottrie di astigmatismo, peggio ancora, diciamo la nostra capacità di vedere e di reagire adeguatamente quando si è alla guida si va riducendo, quindi più alto è il difetto di vista peggio è. Ovviamente se questo difetto di vista è corretto con l'adeguata correzione, e allora il problema non si pone, perché bisogna anche riconoscere che l'adeguata correzione del difetto di vista ti consente di vedere perfettamente 10 decimi o anche più di 10 decimi, quindi non si deve ritenere che siccome si ha un difetto di vista non si possa guidare, ci mancherebbe altro, l'importante è che si porti la correzione che serve a vedere bene in base al tipo di difetto di vista che si ha. Di tutti i difetti di vista forse l'astigmatismo può rappresentare, se molto elevato, quello un pochino più difficile da correggere, che può comportare qualche problema in più, ma in linea di massima direi che i difetti di vista determinano difficoltà alla guida in una misura tanto maggiore per quanto maggiore il numero di diottrie di quel determinato paziente. Intanto voi continuate a raccontarci che cosa vi crea fastidio quando siete alla guida. Alcuni scrivono: gli occhi si stancano, lacrimano, sì. avvertiamo la stessa sensazione che proviamo quando stiamo ore e ore davanti al PC, computer. Altri invece fanno fatica a individuare, no, bene a guidare al buio. Diamo la parola a voi in modo che il professor Bandello possa darci delle indicazioni. E allora, proprio con Gianluca da Novara vogliamo iniziare, quindi inauguriamo nostre telefonate di stamattina. Benvenuto Gianluca all'800 24 00 24. Grazie, buongiorno a tutti. Senta, due domande per il professore. Due, posso? Sì. Va bene, dai Gianluca, proprio perché è il primo. La prima è... Si sta allargando, Gianluca. Vai. Sì, in effetti ho messo qualche chilo. ultimamente mi capita, incrociando autovetture nuove, quelle proprio di ultimissime generazioni, che i fari che montano mi diano particolarmente fastidio. Non so se siano fari a LED o comunque sia cambiata la tecnologia che sta dietro, però in effetti mi danno più fastidio di quelli antichi. Tra l'altro ho paura che tra un po' mi si scaricherà il telefono. Il secondo è se è possibile che ci siano problemi io porto gli occhiali, quindi sono sotto costante controllo per quanto riguarda miopia e quant'altro, ma se con l'età, visto che i fari mi danno sempre più fastidio... Quanti anni ha Gianluca? Ne ho 42. Mamma mia. Se andando avanti con l'età, cioè, ci siano problemi che di solito non si controllano, che non siano legati alla miopia o ad altro, ma che possono in effetti far peggiorare la percezione dei fari che incrocia. Grazie Gianluca. Allora, due domande per il professor Bandello. Insomma, Gianluca ha un po' un problema con i fari, insomma, è la sua fissazione. Sì, io credo che la tecnologia dell'illuminazione delle autovetture si è andata solo migliorando, peraltro a quanto mi risulta la tecnologia italiana da questo punto di vista è all'avanguardia nel mondo e tutte le innovazioni provengono da ditte italiane e poi prendono piede e vengono diffuse in tutto il mondo. Credo che se ci sono dei problemi di questo tipo non sia tanto perché il tipo di luce prodotta dalle nuove forme di illuminazione sia capace di produrre maggiori difficoltà. Forse c'è un problema di allineamento dei fari, no? Una cosa fondamentale è che i fari abbiano un'angolazione grazie alla quale riescono ad illuminare il piano stradale per una distanza che è quella che deve essere, non di più e non di meno, e pertanto non vorrei che il caso che riferisce il nostro ascoltatore fosse dovuto al fatto che i fari fossero eccessivamente alti. Può succedere per esempio che se l'autovettura è piena, ci sono tre persone sedute dietro, i fari si alzino e possono poi diventare fastidiosi per chi incrocia. Non credo esistano dei problemi legati al tipo proprio di illuminazione prodotta. La seconda domanda era pertinente, il fatto che ci potessero essere dei problemi con gli anni, che sicuramente sì, ma non certo a 42 anni. Col passare degli anni il cristallino perde la sua trasparenza. Una delle cose che si notano quando questa perdita di trasparenza si verifica è che si ha un senso di abbagliamento, perché le luci che incrociamo determinano una sorta di diffrazione all'interno dell'occhio, danno un senso di abbagliamento, danno fastidio al paziente. Questo in genere è segno del fatto che il cristallino non è più perfettamente trasparente, però sono eventi che sono riservati a fasce di età più avanzate rispetto a quella del nostro ascoltatore. L'altra volta che sono andata a fare benzina, la mia macchina è in gestione un po' con le mie figlie, devo dire che non è proprio pulitissima. E il benzinaio mi ha detto: signora, lo vogliamo pulire questo parabrezza che ha lei ha la cataratta incorporata. Adesso con questo andiamo a sentire i mercati e sì, poi esatto. Torniamo subito dopo insieme. È possibile prendere la patente? Certo, siamo qui per questo. Venga avanti, signore, non si preoccupi, prego. Grazie. Sa com'è. Il signore vorrebbe prendere la patente. Non si illuda. Piloti si nasce, non si diventa. Le sue generalità. Piloti si nasce o si diventa? Di sicuro bisogna saper essere piloti prudenti e consapevoli per viaggiare sempre garantendo la nostra sicurezza e quella di chi ci sta vicino. E ad attestare la nostra attitudine alla guida c'è proprio lei, la patente. Tutti ricordiamo il giorno in cui l'abbiamo ottenuta, poi magari io e Nicoletta lo raccontiamo. Qualcuno più facilmente, qualcuno sudando sette camicie e magari ripetendo anche qualche volta l'esame. Non tutti però ricordiamo così facilmente di rinnovarla, come già qualche ascoltatore ci scrive. E allora, quando e come rinnovarla? Quanto ci costa? Ne parliamo oggi nella pagina dei denari. Voi dovete rinnovarla a breve, sapete già dove andare e quanto spenderete. E la vostra vita, la vostra vista è cambiata? 800 24 00 24 per i vostri interventi e le vostre domande. A tra poco. La canzone di Fiorella Mannoia. Torniamo alla guida insieme al professor Bandello. Professore, riferimento a questo, scusatemi, volevo sì. dire che mia zia penso abbia avuto il record nazionale perché ha fatto l'esame per la guida 7 volte e poi e una delle volte in cui fu bocciata a un certo punto, quando risultò indispettita dai commenti che faceva l'ingegnere, nel mezzo del traffico scese dalla mollò la macchina, scese dalla macchina e se ne andò indispettita. Sì, non era una grande una poi grande però l'ha presa, però poi alla fine l'ha presa, ma credo 7 volte. Sì, e vabbè, ma ci vuole il suo tempo. Era l'esame di guida che ripeteva più volte, sì, dottore. Sì, la teoria l'aveva fatta, era la pratica che proprio non riusciva. Io sono stata mandata all'orale all'esame di pratica. Sì, o quando dovevi fare le crocette, qual è? Non la teoria. La teoria. Mi hanno chiamato e io ho detto mi chiameranno per ritirare i compiti, insomma si parla di un po' di anni fa, invece avevo sbagliato la domanda sul motore e mi hanno fatto una domandina io per pura fortuna forse l'ho indovinata. Io veramente i miei esami di guida sono i più vivi che ho in testa, poi vi racconto, assolutamente me li ricordo benissimo, sia quello di teoria che quello di guida, di pratica. Mi ricordo che quando ho superato quello di guida ritornai felicissima a casa a piedi, mio padre mi aspettava dal balcone, mi guardò e da lontano mi chiese l'hai superato? Sì, e scosse la testa disperato come per dire ma non è possibile. Vabbè, comunque io e Deborah circoliamo, quindi sì. Attenzione, ci faremo fare un controllino dal professor Bandello, ma insomma per adesso vediamo bene. Professore, ci sono dei disturbi che si presentano mentre siamo alla guida e noi tendiamo a sottovalutarli o ci facciamo un po' l'abitudine. Vogliamo invece attenzionare i nostri ascoltatori su alcuni segnali che dovrebbero essere la spia di qualche cosa che non sta andando per il verso giusto? Beh, allora, una delle cose per esempio che vale la pena di considerare, vale per la guida, vale anche per il video terminale, vale in generale per qualsiasi tipo di attività, è che quando noi dopo un po' di tempo che utilizziamo la nostra vista, soprattutto da vicino, ma succede anche alla guida, se iniziamo ad avere un senso di affaticamento visivo o peggio mal di testa, lacrimazione, arrossamento agli occhi, questo spesso è significativo del fatto che stiamo costringendo quel muscolo che abbiamo all'interno dell'occhio di cui parlavo precedentemente, lo stiamo costringendo a un surmenage, perché ci sono dei difetti di vista, in particolare la ipermetropia, che possono essere compensati da una iperfunzione di questo muscolo, per cui noi continuiamo a vedere in modo nitido, però per ottenere questo risultato il muscolo fa uno sforzo enorme, per cui dopo un certo numero di minuti che lo stiamo impegnando con queste modalità, inevitabilmente iniziamo a avere un senso di affaticamento visivo, arrossamento, e questo è un segnale da non trascurare. Questo è un segnale assolutamente da non trascurare, che va preso in adeguata considerazione, perché probabilmente una banale correzione ottica potrebbe come d'incanto risolvere tutti questi problemi. Ovviamente ovviamente le altre cose da considerare sono quelle pertinenti la qualità della visione, se abbiamo la sensazione di non riuscire a vedere bene i cartelli stradali, piuttosto che la fatica alla guida notturna è un problema molto segnalato dai nostri ascoltatori. Sì, ed è vero, perché la guida notturna, diciamo, richiede una qualità di visione particolarmente buona, quindi laddove esistano dei difetti visivi che non ti consentono di vedere perfettamente, ma che in condizioni di luminosità elevata consentono di essere superati e la qualità della nostra prestazione automobilistica è buona, viceversa in condizioni di visione crepuscolare o peggio notturna si manifestano molto maggiormente, il paziente ha la sensazione di non avere una vista adeguata, per non dire di quelle malattie in cui c'è un danno elettivo che colpisce le porzioni periferiche della retina, che sono le parti che sono popolate da un certo tipo di fotorecettori, che sono i bastoncelli, che sono quelli che si mettono in funzione quando la luce è poca. Allora le malattie che comportano un danno soprattutto a carico dei bastoncelli, quindi della retina periferica, sono quelle che fanno sì che nelle ore notturne si abbiano enormi difficoltà a guidare, e lì veramente poi se uno non sa di avere questi problemi rischia di essere un pericolo pubblico, perché possono esserci dei problemi importanti. Professore, non vi vedete perché siete tutte e due in linea, ma potete salutarvi. È arrivato a Cuore Denari il professor Paolo Nucci. Buongiorno, buongiorno, e volevo dire, proprio perché conosco bene Francesco, che io ho avuto modo di sentire la zia lamentarsi dell'esame di patente, ma lei riferiva al suo oculista che era appunto sul No, io faccio riferimento ad anni in cui non ero neanche alle scuole medie, credo, ero proprio bambino. Hai visto qua come si scoprono gli altarini, Nicoletta, fra i nostri medici? Insieme al professor Nucci, come anticipato, affronteremo la vista. Il problema della vista negli adolescenti e nei bambini. Agli adolescenti appunto è dedicata, insieme alla sicurezza alla guida, la giornata mondiale della vista. So che il professor Bandello l'abbiamo rubato un po' di tempo in più, perché doveva restare con noi fino alle 11:30, ma noi l'abbiamo un po' ingannato. No, va benissimo, sono contento di essere stato con voi, vi ringrazio molto. Grazie. Torni a trovarci, ma la vogliamo qua. E ci saluti qua. Sua zia, soprattutto. No, non c'è più, ma è andata via quando aveva 98 anni. E sicuramente aveva rinnovato la patente almeno 10 volte, ogni 2 anni dagli 80 in avanti. Grazie professor Bandello. Grazie. Buona giornata. Professor Nucci, con lei ci occupiamo dei bambini e degli adolescenti, a cui è dedicata appunto la giornata della vista, una terra un po' di frontiera gli adolescenti, perché non vengono intercettati, sfuggono abbastanza i controlli del pediatra e ancora del medico di famiglia, i genitori magari trascurano un po' la prevenzione, perché si seguono i bambini quando magari sono piccoli, poi se il bambino vede bene si pensa che anche l'adolescenza sia un'età assolutamente protetta da questo punto di vista. Certo. Ma in adolescenza invece le cose possono cambiare. Sì, in realtà è vero che trascurare questa fascia d'età non è giustissimo, anche se a differenza del bambino, in cui la prevenzione è fondamentale, perché però pensate bene al bambino. Il bambino è seguitissimo, il bambino fa i suoi tagliandi, va dall'oculista, abbiamo adesso questa figura straordinaria che è quella dell'ortottista, che si occupa proprio della prevenzione in età infantile, che si occupa proprio di riconoscere precocemente i difetti, quindi è un po' coccolato. L'adolescente mediamente tende a non essere esaminato, però si lamenta. L'adolescente che diventa per esempio miope nel tempo è quello che riferisce in linea di massima di vederci male da lontano. Questa è una fascia d'età in cui il riferimento di non vedere bene deve essere esaminato, deve essere vagliato, e ci consente di riconoscere per esempio precocemente la miopia. Qualche novità per esempio in questo senso, cioè oggi si comincia a pensare per esempio delle terapie mediche per il controllo dell'evoluzione della miopia, quindi ha senso pensare anche alla prevenzione dell'adolescente. Comunque l'importante è non trascurare segnali che possono presentarsi anche durante l'adolescenza. Spesso si dice, ma hai sempre visto bene, abbiamo fatto tutti i controlli, e quindi si tende a rimandare. Noi non possiamo però rimandare il nostro appuntamento con le informazioni sul traffico. Tutti attenti al traffico. Ecco, ritorniamo subito dopo insieme, ancora con un paio di minuti col professor Nucci, per affrontare poi il secondo argomento che ci sta particolarmente a cuore, è la patente. E siamo tornati veloci insieme, abbiamo Luca da Pisa. Buongiorno Luca, 800 24 00 24. Buongiorno. Benvenuto. Salve, buongiorno. Il professor Nucci aspetta la sua domanda. Sì, io è relativa a mia figlia, che è affetta da quando era piccolina da ipermetropia e ha sempre portato gli occhiali, e volevo chiedere se c'era la possibilità, magari più grande, c'era la possibilità di intervenire chirurgicamente, oppure se la tiene così per la correzione di questo disturbo visivo. Sì, esatto. Grazie Luca. Professor Nucci, dipende sì. Da quanto è ipermetrope. Se l'ipermetropia è sotto le 4 diottrie, direi che ci sono buonissime possibilità con i laser. Oggi la chirurgia refrattiva ci consente di fare veramente dei buoni trattamenti. Se l'ipermetropia è superiore, il trattamento con laser lascia ancora qualcosa a desiderare, ed io non avrei fretta, perché sono sicuro che nel giro di pochissimo tempo si riuscirà a trovare soluzioni ancora migliori per la correzione dell'ipermetropia chirurgica. Allora, invitiamo i nostri ascoltatori che non sono riusciti ad intervenire a scriverci, invieremo naturalmente le vostre mail ai nostri esperti. Intanto ci prenotiamo già il professor Nucci per una puntata qui in studio per parlare della vista dei bambini e degli adolescenti. Volentieri vi darò anche qualche notizia importante sulle montature da occhiali per bambini, che sono cose interessanti che stiamo studiando come università con un gruppo importante industriale che è la Safi. Insomma, sono cose che ci possono interessare molto per il futuro. Sì. Allora, professor Nucci, appuntamento qua a cuore denari. E studiate gli economici, professor Nucci, perché sennò qua la donna di denari solleva subito qualche polemica, mi raccomando. Spese sostenibili per le famiglie. L'industria che ci sta dietro finalmente all'università è importante. Ottimo. Grazie professore. Salve. Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore. Tu non mi riconosci o fingi di non riconoscermi? Dispiacente, ma io in servizio non riconosco nessuno. E noi oggi non favoriamo la patente, a meno che naturalmente viaggiando qualcuno con una divisa non ce la chieda, ma vogliamo favorire ed aiutare chi si avvicina al rinnovo della patente in occasione della giornata mondiale della vista, di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Il legame è molto stretto, essere automobilisti è un motivo in più per prestare attenzione ai nostri occhi e alla nostra vista. 800 24 00 24 è il numero verde che oggi ci permette di raccogliere le vostre domande sulle modalità, le scadenze, i tempi per il rinnovo della patente. Ma visto che la giornata della vista è dedicata in modo particolare ai giovani, torneremo anche ad aprire il codice della strada per mettere a fuoco, se la vista ce lo permette, quegli aspetti a cui i neopatentati devono fare particolare attenzione. Allora, avete un neopatentato in casa? Nicoletta, no, le tue ragazze ormai sono grandi. Beh, dipende da che neo, no. Mezzo neo. Come si sta comportando questo neopatentato? La sicurezza viene prima di tutto, ma non dimentichiamo le multe, che possono essere molto salate. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Se volete scriveteci su Facebook, su Twitter, non vi sfuggiamo. Ci aiutano oggi intanto il dottor Maurizio Vitelli, direttore generale della motorizzazione civile, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie e grazie, bentornato ad uno dei nostri amici preferiti di Cuore Denari. Sì, Silvio Scotti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Uno dei massimi esperti di codice della strada, esperto per il Sole 24 ore, naturalmente esperto anche di multe, in questo caso perché stamattina bacchetterà un po' chi viaggia e guida con un po' di allegria e non tanto attento. Allora, dottor Vitelli, però volevo cominciare con lei sui temi del rinnovo della patente, perché le regole, se non abbiamo capito male, sono cambiate proprio dall'inizio di quest'anno, il 9 gennaio, giusto? Sì. Che cosa è successo di nuovo? Allora, con l'adozione della nuova direttiva, la terza direttiva patenti, abbiamo iniziato un nuovo sistema di rinnovo di patenti. Fino al 9 gennaio il rinnovo di patente avveniva sempre dall'ufficio UCO, dall'ufficio centrale operativo del CED della motorizzazione, e veniva trasmessa a casa del cittadino una fustella dalla quale si diciamo, il rinnovo. Proprio un'etichetta adesiva da riapplicare, sì, sulla patente. Un'etichetta che andava molto bene sulle patenti di tela, ma su, già sulle patenti in plastica creava grossi problemi perché nel tempo si deteriorava, non si riusciva più nulla. Comunque, la terza direttiva patenti prevede che all'atto del rinnovo bisogna mettere una nuova patente, quindi non ci sono, dal 9 gennaio non ci sono più fustelle, non ci sono più etichette, c'è una nuova patente che viene trasmessa a casa del cittadino. Quindi bisogna che riconsegniamo di nuovo a chi, eventualmente al soggetto che scegliamo per il rinnovo, una nuova fototessera, no? Dottor Vitelli? Sì, allora se in termini procedurali si va presso un gabinetto medico di un medico abilitato in materie un medico legale, certo. Cioè un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o un medico della Polizia di Stato, o un medico dei Vigili del Fuoco, cioè un medico militare, ovvero un medico delle Ferrovie dello Stato. Presso un'autoscuola dove che ospita un gabinetto medico dove una di queste figure è, certo, presente. C'è scritto sempre rinnovo esami per rinnovo della patente, esatto. Poi tra l'altro poi ne parleremo a seconda, diciamo, del soggetto che si sceglie per questo rinnovo, i costi sono anche un po' diversi. Mi ha molto stupito, dottor Vitelli, la questione delle ferrovie, cioè che si può rinnovare la patente anche presso un medico delle ferrovie. Sì. Ma perché? Dove sono questi medici delle ferrovie? Dove li troviamo? Ma credo, dunque, allora non credo, ma ci sono in tutti i capoluoghi di regione. A Roma ce n'è una, per esempio, via Pigafetta, ce n'è a Firenze. Ci sono. No, ma mi ha stupito che si possa andare lì, perché nel senso non li abbiamo mai invitati. Ma perché non si occupano di far arrivare puntuali treni invece di occuparsi del rinnovo delle patente degli italiani? Che adesso non voglio fare questa polemica. Ma no, architetto Vitelli, glielo dica lei, fanno altro. Questi, no, beh, giusto? Guardi, lei deve pensare che quando io feci il concorso al Ministero dei Trasporti, sì, a margine del concorso vero e proprio, feci tutto degli esami psicoattitudinali presso il sanitario dell'FS. Sì. Cioè, è una struttura di grande eccellenza, devo dire. Va bene, prendiamo atto, abbiamo oggi imparato anche questa cosa nuova. Breaking news. Breaking news per annunciare i Nobel per la chimica, appena in questo momento presentati. Si tratta del professor Bezrig El, del professor Mörner, del professor El, dicevamo, e del professor Bezrig, scusate ma sono appena usciti, tra pochissimo vi daremo la scheda e la ragione appunto per cui sono stati premiati. È tutto, grazie. Magari per qualche modalità innovativa di rinnovo della patente hanno vinto questo Nobel. Hai visto mai questi tre match? Dubito, non credo. Non credo. Allora, dottor Vitelli, ritorniamo da lei. Le giro subito una domanda di un'ascoltatrice che appena abbiamo iniziato la trasmissione ha scritto: mi sono accorta proprio oggi che la mia patente è scaduta. Cosa devo fare adesso? Non è il caso di andare subito in agitazione, no? Bisogna rinnovarla. L'importante è che non sia scaduta da oltre 3 anni. Se è scaduta, se la scadenza l'ha avuta nell'ultimo periodo, quindi comunque non siano nel trascorso di anni, si può dirigere o presso uno studio di consulenza automobilistica, o presso un'autoscuola, o presso uno di quei gabinetti di cui abbiamo parlato poc'anzi, gabinetti medici di cui abbiamo parlato poc'anzi, con una fotografia. E con poi dipende da dove va, se va presso uno studio di consulenza o un'autoscuola glielo fanno lì, sì. Se va presso un medico i tempi sono un po' più lunghi, risolvere i diritti di motorizzazione e di bollo, ecco. Tra l'altro è molto importante, anch'io l'ho lasciata anche scadere, te lo dovevo dire, è una cosa che hai aspettato la fine della prima parte della trasmissione per confessarmelo, sì, perché so che Silvio Scotti avrà delle parole buone per me. Ma allora, però adesso, a parte, voglio che ne abbia anche per me, perché ti dirò che anch'io me ne sono accorta proprio a ridosso. Stavo andando a prendere l'auto nuova aziendale, mi sono accorta che non potevo ritirarla perché avevo la patente scaduta. Per cui, Scotti, ci sente? Ecco, no, adesso guardi, comandi. Non riusciamo subito a farla intervenire, ma ci faccia subito poi l'ABC di che tipo di sanzione appunto rischamiamo di come dire, vederci appioppare se circoliamo con la patente siamo scaduta. Senza patente. Allora adesso ci fermiamo, abbiamo il giornale radio e naturalmente poi torniamo con tutte queste indicazioni. volta all'ora per trovare la bimba mia. A 100 all'ora, ma a patto che siate in autostrada. Non avventuratevi a questa velocità su altre strade, naturalmente. Così canta l'eterno ragazzo Gianni Morandi. I nostri giovani neopatentati hanno probabilmente una vista meno affaticata. Devono comunque fare molta attenzione. Allora, a casa vostra c'è un principiante, un neopatentato? Come si sta comportando? Raccontatecelo all'800 24 00 24. In realtà questa mattina abbiamo preso a spunto la giornata mondiale della vista, che quest'anno si occupa nello specifico appunto dei giovani, per parlare anche dei giovani che si apprestano a prendere la patente, naturalmente per la prima volta, ma parleremo anche di chi deve rinnovarla, quali sono le regole. Ci sono delle novità in vigore dal mese di gennaio scorso. Questa mattina con noi Maurizio Vitelli, direttore generale della motorizzazione civile, e il nostro Silvio Scotti, uno dei massimi esperti italiani di codice della strada. Scotti, eravamo rimasti a lei prima della nostra pausa, e il dottor Vitelli prima ci ha detto che tutto sommato, se anche ci accorgiamo oggi che la nostra patente è scaduta, abbiamo ancora qualche tempo naturalmente per rinnovarla, non è che ci dobbiamo affrettare a farlo entro un'ora. Detto questo, se però, che ne so, un vigile urbano, un carabiniere, se ci dovessero fermare, se ci dovessero pizzicare con un documento che da questo punto di vista non è in regola completamente, che cosa ci succede? Sarebbe un problema, un problema, perché la patente scade esattamente alla mezzanotte della data riportata in scadenza, e da quel momento non si possono più condurre i veicoli, il che non significa che io debba rifare la patente da capo, ma che debba provvedere ovviamente al suo rinnovo. Se mi dovessero fermare alla guida con la patente scaduta, la sanzione già di per sé pecuniaria è piuttosto seria, perché va da 155 euro fino a 624, ma il problema più grave è che mi ritirano la patente. Ma allora che cosa vuol dire che c'è questo tempo di 3 anni, come ci ha detto prima Vitelli, per il rinnovo? Scusi. Questo significa ho capito male io. No, questo significa semplicemente che non si deve recuperare la patente, non si deve rifare la patente da capo, perché se la patente viene lasciata tra virgolette a dormire nel cassetto per oltre 3 anni, allora la procedura è completamente diversa. Io sto parlando della scadenza della patente. Al momento della scadenza, purtroppo scatta una sanzione amministrativa e il ritiro della patente. Sulla base del codice della strada. Da quel momento non si possono più condurre i veicoli e bisogna provvedere a sottoporsi alla prevista visita medica, a fare gli accertamenti di rito, pagare i relativi bollettini, dopodiché si potrà riottenere il documento dall'organo di polizia che l'ha ritirato e ritornare alla guida. Stavamo tenere presente la nostra la scadenza della nostra patente. Allora, tra l'altro, a proposito della scadenza della patente, segnalano gli ascoltatori, ed è un tema che avremmo voluto naturalmente affrontare anche con Maurizio Vitelli, tra le varie novità, credo entrate proprio a regime da poco, c'è anche quella relativa al fatto che, a prescindere dalla data in cui abbiamo rinnovato per l'ultima volta la patente, dottor Vitelli, adesso la prossima scadenza invece sarà in concomitanza con la data del nostro compleanno. Ci spiega meglio questa novità? È un'idea introdotta nella passata legislatura. Nel momento in cui viene rinnovata la patente, se non si è avuto la possibilità di usufruire di questo speciale, mi piace il termine benefit, nel momento in cui vado a rinnovare la patente va allineata alla scadenza, alla data del compleanno successivo alla scadenza. Mi spiego meglio. Se la mia vado a rinnovare la patente oggi e il suo compleanno è il 4 dicembre, è il 4 dicembre, non verrà allineata al 6-7 all'8 ottobre, bensì alla data del mio compleanno. Compleanno successivo. E in questi 3 mesi, diciamo, di arco temporale provvisorio, che cosa succede? Siamo comunque coperti? No, visto che stiamo parlando come diceva giustamente Scotti, nel momento in cui scade la patente è uno ne ha contezza, va rinnovata, altrimenti non si può guidare. Si va a rinnovare e la scadenza la prossima scadenza verrà allineata alla data del compleanno. Ho capito. Perfetto. Speriamo insomma che sia chiaro anche ai nostri ascoltatori che sono in procinto di fare questa operazione. Operazione peraltro quanto costosa, Nicoletta? Un po' ce lo stanno segnalando i nostri ascoltatori ai messaggi. Sì, sono prezzi insomma che oscillano tra gli 80 e i 90 euro. Sì, anche 100, 120 a seconda un po' di dove si va. La modalità diciamo più conveniente è quella di andare a una ASL vicina, oppure se si va ad una scuola guida, come si dice in questo caso, si fa magari tutto un po' più velocemente, però è un po' più, come dire, oneroso. Dottor Scotti, commentavamo con Nicoletta, microfoni spenti, una mail che ci è arrivata da un ascoltatore, Marcello, che ci racconta che suo zio, che scoppia di salute, noi siamo felicissimi per lui, lunedì prossimo compie 94 anni, ha rinnovato la patente il 7 agosto di quest'anno per altri 2 anni. Marcello dice: io sono assolutamente felice per lui, ma ci sembra una cosa normale? Lei che pensiero ha a questo proposito? Poi parleremo in realtà dei giovani neopatentati, che sono quelli che stamattina ci interessano di più. Ecco, io spero che il nonno non sia a 94 anni, non sia un neopatentato. Comunque, detto questo, ovviamente la patente, con il progredire dell'età del conducente, viene ridotta come rinnovi, no? Sì. Per esempio, fino a 50 anni la patente di categoria B è rinnovata per 10 anni, dopo i 50 anni viene rinnovata solamente per 5 e via via diminuisce. A questo punto si tratta di accertare le condizioni fisiche della persona. Ora, calcolando che l'età media sta aumentando e che fortunatamente tutti quanti avremo la possibilità di diventare più anziani rispetto a quello che siamo, è chiaro che si allunga anche il periodo. L'importanza, secondo me, è che la verifica medica delle condizioni psicofisiche del conducente sia scrupolosa. Assolutamente scrupolosa, esatto. Allora, intanto, a proposito invece del tema che abbiamo affrontato prima, molti ascoltatori ne approfittano questa mattina anche per segnalarci il fatto che è proprio grazie alla visita per il rinnovo della patente che hanno scoperto qualche difetto visivo. È frequente secondo te, Nicoletta, questa? Beh, io penso che possa capitare, soprattutto anche facendo riferimento al fatto che i controlli della vista sono rarini, un po' trascurati, soprattutto dalle persone che pensano e credono di vederci bene. Io andrei allora a farci raccontare una storia. Proprio a tal proposito, come si dice? Di Claudio, che ci chiama da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Claudio. Senti, io. Buongiorno, sono qui in linea. Sì. Dunque, io ho scoperto, diciamo quasi 10 anni fa, ormai l'anno prossimo mi scade la patente, che non vedevo benissimo dall'occhio destro. Sì. Quando siamo andati a vedere il quadro delle lettere. Sì. Mi ero accorto che totalmente. Certo. Ero ciecato. Questo però mi ha fatto vedere in mente che da piccolo avevo fatto dei controlli oculistici e all'epoca, io sono quasi 60 anni, gli oculisti preferivano non mettere occhiali perché avrebbe impigrito l'occhio malato. Cioè, praticamente. Lei quindi si porta indietro, la stiamo sentendo male, Claudio. Infatti. Si porta dietro questo difetto e Claudio non certo. Si era accorto che aveva una visione ridotta da un occhio. È stata proprio l'occasione del rinnovo della patente fargli toccare con mano il problema. Allora, per chi la considera, come dire, l'ennesimo inutile balzello, il pagare per fare questo rinnovo, invece avete avuto una dimostrazione lampante, anche con la testimonianza del nostro ascoltatore, che invece serve. Allora, provate a fare delle prove anche voi da casa. Chiudete un occhio e poi guardate, poi chiudete l'altro, guardate, vedete se no, la visione esatto. È uguale. Senza aspettare che scada la patente per fare il rinnovo, naturalmente. Architetto Vitelli, c'è qualche ascoltatore che mette un po', come dire, in dubbio dal punto di vista statistico l'efficacia di questi controlli e qualcuno dice: sfido come dire, a monitorare quante patenti non vengono rinnovate o non vengono rilasciate appunto di nuovo in virtù di un problema di vista che appunto gli italiani possono avere, un po' come a dubitare della tipologia di controlli che vengono fatti, no? Che cosa ci può dire a tal proposito? Io non dubito della serietà di questi controlli, perché sono controlli effettuati da medici che hanno. Sì. Architetto Vitelli. Abbiamo perso l'architetto Vitelli, no? Mi sente? Sì, sì. Mi sente. Forte e chiaro. Forte e chiaro. Allora, io non dubito del momento clinico operato dal medico. Se il medico nel suo gabinetto fa le prove che deve fare attraverso la tavola ortomedica, attraverso il campo visivo, eccetera, questi questo è un momento utile e necessario per verificare lo stato di salute della vista, ma anche complessivo, direi, del conducente. Ovviamente. Senta, architetto Vitelli, a che cosa... Anche medici che hanno competenze di certificazione pubblica. Certo, appunto. Sì. A che cosa serve il sito Il Portale dell'Automobilista? Perché ci sono degli ascoltatori, ecco, che ci segnalano che addirittura lì, un po' inserendo i nostri dati e le caratteristiche importanti della nostra anagrafica, possiamo addirittura fare un punto sulla nostra patente. Se siamo così pigri da non andare a controllare la data di scadenza sulla patente stessa, il portale ce lo può indicare, così? Certo. Anzi, io consiglio il pubblico che sta in ascolto a iscriversi al portale dell'automobilista, perché quella cosa che è accaduta a lei, che si era dimenticata di rinnovare la patente, noi per tempo, se una qualvolta lei è iscritta, e sono circa 4 milioni di italiani che sono iscritti, noi avvisiamo attraverso... Dai, ci scriviamo, Sì. Dai. Allora, intanto architetto Vitelli, era Nicoletta che si era scordata di rinnovare la patente. Io me ne sono accorta proprio lì in corner, come si suol dire, in calcio da. Comunque è utile iscriversi. Sì, questo, al di là di avere contezza puntuale dello stato dei punti della patente e di tante altre cose, avvisiamo se ha un'autovettura la divisione che sta scadendo la divisione, se ha appunto la patente, le avvisiamo che la sua patente è in scadenza attraverso un SMS. Ottimo, benissimo, tutti ad iscriversi allora sul portale dell'automobilista. Silvio Scotti sarà già indubbiamente iscritto, direi. Scotti, ritorniamo però un po' alle sanzioni che si rischia di vedersi combinare qualora si circoli naturalmente non in regola. I neopatentati naturalmente avranno dei controlli da parte vostra, da parte degli ufficiali pubblici, un po' più serrati, più stringenti, no? È così? Oppure è una leggenda metropolitana? No, effettivamente è così, anche perché esistono delle regole particolari proprio per i neopatentati. Basti pensare per esempio al consumo di alcol, è stato introdotto nel 2010 l'articolo 186 bis, che prevede che per i primi 3 anni dal conseguimento della patente il livello alcolemico deve essere assolutamente 0, quindi non si può bere assolutamente nulla. Anche senta, prima di specificarmi la questione del tasso alcolemico, visto che abbiamo parlato di vista, per esempio molte patenti, naturalmente questo lo è nel mio caso, ad esempio prescrivono l'obbligo di guidare con lenti o meno, no? Poi voi fate una verifica se effettivamente il conducente gli occhiali li indossa oppure ha le lenti a contatto? O è un controllo un po' meno, diciamo, frequente? No, direi che è un controllo assolutamente di routine, perché siccome è riportata la limitazione sulla patente, questa viene controllata. Ovviamente è molto più semplice nel caso degli occhiali, un pochino più complesso nel caso delle lenti a contatto, però sono controlli che vengono svolti normalmente di routine. Ottimo. Allora, chi sentiamo, Nicoletta? Andrei a Marcella, perché diamo sempre la precedenza alle signore. Buongiorno, ci chiama da Milano. Benvenuta. Grazie a voi. La trasmissione mi capita proprio perfetta stamattina. Lunedì mattina sono andata a fare il rinnovo della patente. Il rinnovo patente. Sì. E oggi mi è già arrivata la patente a casa. Ha visto? Dai. Qua, a Milano. Merito della Lombardia. Lunedì mattina fatta presso l'ASL, dove ho fatto tre versamenti di 36, certo. 15 ecco. e 9. Ecco. Una foto, tutto come ha detto il dottor Vitelli, sì. E in 2 secondi la visita, fortissime dottoresse che state velocissime. Ecco, quel velocissime, ecco. Io immagino che lei l'abbia detto per dire che sono efficienti. In realtà quel velocissimi mi preoccupa un po'. Ma Marcella, tutto bene? Secondo te devono esserci degli standard di controllo della vista per il rinnovo della patente? Quanto in media un medico, un oculista dovrebbe fare una visita? Dovrebbe essere una visita molto accurata, secondo me. E almeno, insomma, non con i minuti contati. Almeno forse Marcella un quarto d'ora, 20, no? Piuttosto bene. Magari lì è stato facile, mettiamo che sia andata così, no? Comunque Marcella, è questione di efficienza lombarda, Scotti, il fatto che sia arrivata Marcella così rapidamente la patente a casa, oppure funziona proprio così, almeno secondo la sua esperienza, poi richiediamo a Vitelli. Ecco, purtroppo la mia esperienza si limita al territorio della Lombardia e io ho notato che la tempistica, ma già negli anni scorsi, era piuttosto stringente e c'era un'efficienza piuttosto avanzata del nostro sistema. Poi probabilmente il discorso vale per tutta Italia, ma non lo posso testimoniare. Certo. Senta, ritornando per un attimo alle raccomandazioni che ci stava dando prima sulla guida dei neopatentati e naturalmente tutte le regole di buona condotta al volante, tasso alcolemico, poi che cos'altro dobbiamo ancora ricordare? Ecco, una cosa molto importante, perché sfugge a molti neopatentati, è proprio la limitazione speciale in relazione alla velocità che devono rispettare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Praticamente sulle autostrade non possono mai superare i 100 km orari, anche perché nel caso dovessero essere fermati per un eccesso di velocità, questa violazione, che comporta una sanzione di 160 euro più la sospensione della patente da 2 a 8 mesi, quindi una sospensione piuttosto seria, si aggiungerebbe all'ulteriore violazione del limite di velocità. Sono situazioni che concorrono e che non si escludono a vicenda. State attenti, ragazzi, mi raccomando, quindi ecco, in autostrada limite 100 km/h, mentre è di 90 sulle strade extraurbane principali, diciamo sulle tangenziali, dove normalmente il limite è di 110 km/h, per i neopatentati diventa di 90 km/h. Architetto Vitelli, per il rinnovo della patente abbiamo detto tutto, la nostra trasmissione sta terminando, c'è qualche raccomandazione che ci siamo dimenticati? Sicuramente ce ne sono. Sì. Volevo assicurare gli ascoltatori, che non è una prerogativa della Lombardia. Dalla Lombardia alla Sicilia noi mandiamo la patente nei primi 3-4 giorni. Sì. E comunque abbiamo circa il 96% delle patenti che vengono stampate tutte a Roma. Sì. E mandate a casa del cittadino, il 96% di queste patenti vanno a casa del cittadino entro 7 giorni. Benissimo, grazie all'architetto Vitelli e a Silvio Scotti. Intanto un consiglio di Omar, che dice: chi sta per compiere 50 anni ha la patente in scadenza, la rinnovi subito, così la rinnovano ancora per 10 anni. Nicoletta, grazie, noi ci aggiorniamo non domani, perché io sarò alla Camera in occasione della giornata mondiale della vista, ma ritorno venerdì quando non ci sei tu, passaggio di testimoni continuo. Lunedì di nuovo insieme. Buona giornata.